Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, anche quest'anno vi accompagneremo ogni giorno su Radio 24 alle 16.30 è l'appuntamento con Summertime per segnalarvi tutti gli avvenimenti dell'estate italiana, concerti, spettacoli, show, festival che caratterizzano questa bellissima nazione piena di cultura. E andremo in località di mare, andremo in quelle di montagna e poi andremo anche nell'estate in città. E iniziamo appunto alla grande con l'Aida di Verdi. Abbiamo sentito Pavarotti nei panni di Radamés che canta Celeste Aida. Perché? Perché l'Aida apre la stagione all'Arena di Verona. Ha aperto, ha debuttato lo scorso sabato e sarà di nuovo in scena l'8 giovedì. Ma è solo una delle opere in scena quest'anno. Ci sarà anche la Turandot che ha già debuttato. Poi sarà la volta di Madama Butterfly, di Carmen e del Trovatore. E a proposito di Madama Butterfly, seguiremo ovviamente il Festival Pucciniano di Torre del Lago, in scena dal 16 luglio al 22 agosto, che aprirà con La Fanciulla del West e tante altre opere del grande maestro. E quelle che sentite sono le note famosissime di Romeo e Giulietta, il balletto sulle musiche di Prokofiev, che vanta quest'anno una eccezionale coreografa. Sì, proprio lei, Carla Fracci, ne parleremo domani, aprirà la stagione alle Terme di Caracalla di Roma e una stagione che proseguirà anche qui con l'Aida, che è un po' la nostra opera nazionale, diciamolo, e il Rigoletto. Ma sono tantissimi, come sapete, gli appuntamenti dell'estate romana, da Villa Celimontana, il Jazz, al Fontanone Estate, tanti altri ancora che noi seguiremo ogni giorno e anche a Milano, moltissimi gli avvenimenti. E questa sera grande inizio con la Milanesiana. Fabrizio Gifuni leggerà Cesare Pavese, la rassegna durerà fino al 19 luglio. Tanti anche i festival e le rassegne estive nelle località di vacanza. E noi vi accompagneremo, anche quest'anno ci recheremo a Taormina, dove parte il Film Festival, ma ci sono anche molti spettacoli teatrali in scena. Ravello, in provincia di Salerno, sarà al centro delle nostre cronache per il Summer Festival. Il 1 luglio, pensate, è andato in scena John Malkovich nell'ambito di una rassegna quest'anno dedicata alla follia. Uto Ughi, sempre a Ravello, suonerà il concerto per violino di Tchaikovsky il 24 luglio. Poi più su andremo a curiosare alla Versiliana, molti gli appuntamenti, tra i quali anche lo Scarfaglietto con Geppi Gleiesias, una commedia di Edoardo Scarpetta, e anche il One Man Show con Enrico Montesano. Insomma, non vi resta che seguirci e segnalarci anche le iniziative che si svolgono proprio dove state trascorrendo le vacanze. Scriveteci quindi a summertime@radio24.it. e adesso parliamo di quello che succede oggi. Oggi ci occupiamo di rock. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky. lucky man to count on both hands the ones I love. E quelli che sentite ovviamente sono i Pearl Jam con Just Breathe all'Heineken Jamming Festival domani. Questa sera invece ci saranno i Black Eyed Peas, un festival un po' sfortunato per il maltempo, insomma il rock porta maltempo. Roberto De Luca, direttore artistico di Live Nation, buongiorno, buon pomeriggio. Voglio dire, non è tanto il festival che porta il maltempo se ne arriva da solo e a volte arriva anche in anticipo quando le previsioni davano una pioggia innottata, insomma. Ma la pioggia ci sarà stasera, per la pioggia di applausi, immaginiamo, no? Per i Black Eyed Peas. Come si sta strutturando il tutto? Ma intanto voglio ricordare che abbiamo offerto al pubblico che ieri sera non ha potuto usufruire del concerto dei Green Day di un accesso gratuito alla giornata di oggi. Stiamo verificando altre soluzioni e possibilità per venire incontro ai fan dei Green Day che non hanno potuto assistere alla manifestazione di ieri. Ricordo che è stata una decisione quella di annullare lo spettacolo perché ritenevamo il tutto pericoloso per l'incolumità del pubblico, voglio dire, quindi questa è stata la ragione fondamentale. Infatti è importante poi che tutti quanti ritornino a casa sani e salvi, poi se si è visto il concerto è meglio. E questa sera invece a che ora è? Ricordiamo che sono tutte manifestazioni che si svolgono al Parco San Giuliano di Mestre, ovviamente attaccata a Venezia. Nel pomeriggio Cypress Hill, Club Dogo, i Nerd, per concludersi abbastanza tardi questa notte, perché dopo i Black Eyed Peas si esibiranno anche in un late night show, quindi a chiusura della serata i Massive Attack. E domani invece abbiamo i Pearl Jam, anche Ben Harper, Gossip, Gomez, insomma tanti. Esattamente, tanti, tantissimi. Il tempo si prevede assolutamente buono per adesso. Oggi c'è qua splende il sole, un sole caldissimo. Quindi l'appuntamento è a Parco San Giuliano di Mestre a Venezia, l'avvenimento rock più importante dell'estate italiana. Sì, direi di sì, è uno degli avvenimenti rock più importanti d'Europa, insomma, ormai è riconosciuto come tale da parecchio tempo. E allora sentiamo i Black Eyed Peas che saranno sul palco del Heineken Jamming Festival questa sera. Ringraziamo Roberto De Luca e speriamo che la pioggia non cada a Mestre. Yeah. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies I was the editor. E lasciamo i Black Eyed Peas all'Heineken Jamming Festival Parco San Giuliano di Mestre per andare invece a Roma, ai giardini della Filarmonica di Roma in via Flaminia, dove si apre i giardini di luglio. Buongiorno a Sandro Cappelletto, direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana. Molte novità quest'anno. Beh, innanzitutto direi i freschi giardini, visto il clima di questi giorni, lì si sta al fresco. Meno male, però c'è un posto in Italia, c'è un posto in Italia in via Flaminia. La novità alla quale teniamo di più veramente è questa, che il pomeriggio dalle 5 alle 8, proprio all'ombra dei nostri giardini, è aperto a tutti quanti, a tutti gli amatori di musica, i dilettanti, i ragazzi che vogliono farsi sentire, vengono lì a suonare per il piacere di fare musica per sé, per i propri amici, per i propri cari, per il piacere di suonare. Che genere di musica classica? Allora viene il jazz. Il jazz naturalmente, perché il jazz è una realtà significativa, bella musicalmente, c'è musica classica, c'è musica di tutti i tipi, c'è il pianista, c'è un coro, c'è un gruppo di cornamuse, c'è il violino, c'è il contrabbasso, c'è la chitarra, insomma c'è il piacere di fare musica all'ombra dei giardini. E poi alle 8 cominciano gli spettacoli, cominciano proprio questa sera. Apriamo con la danza, poi se volete vi racconto anche il titolo, perché ce lo dica, dice ce lo dica. Perché le scimmie non amano Mozart e i gatti invece sì. Perché i gatti sono più intelligenti delle scimmie, eh? Quindi sono più intelligenti diciamo degli uomini, diciamo, gatti, visto che noi discendiamo dalle scimmie. E questa è un'ottima risposta alla domanda, e quindi amiamo poco Mozart. No, perché i gatti amano la casa, stare in casa, e le scimmie meno, e lo spettacolo lo racconta. C'è teatro, c'è molta parola, ci sono degli spettacoli in cui si racconta, si raccontano dei romanzi, si raccontano delle storie, si raccontano delle poesie. Allora, noi ringraziamo Sandro Cappelletto per questa brevissima introduzione. Dal 5 al 10 luglio la stagione estiva della Filarmonica Romana, I Giardini di Luglio, perché proprio per agganciarci a quello che lei ha detto, abbiamo una clip di Elio Pandolfi che l'8 luglio presenta Er Lupo Manaro, lettura dei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli. Noi ci scusiamo un po' con i radioascoltatori perché Belli un po' di parolacce le diceva, e quindi voi lo sentirete in questo sonetto, ma a Belli lo possiamo perdonare. SPQR, quell'SPQR inarberate sul portone di quasi ogni palazzo, quelle sono quattro lettere del cazzo che non vuono di niente compitate. Ma ricordo però che da ragazzo, quando leggevo a forza le frustate, me ne trovavo sempre appiccicate 30 dell'ABC tutte in un mazzo. Un giorno al fine mi deve nell'estro da dimandarne un po' la spiegazione a Don Fulgenzio, che era il mio maestro. Ecco che mi rispose Don Fulgenzio: ste lettere vanno di sorso marone, soli predi qui regnano. E silenzio. E adesso andiamo a Torino, dove è in scena fino al 22 luglio il Pifferaio Magico, 16ª edizione della rassegna di teatro per ragazzi. Questa sera storia di coraggio e di paura. Buongiorno Graziano Melano, direttore artistico della Fondazione Teatro Ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come sta andando la rassegna? So che questa sera c'è appunto storia di coraggio e di paura, mentre domani c'è la gabbianella e il gatto, e insomma si cambia poi molto rapidamente, ci sono moltissimi spettacoli. Sì, continuiamo anche d'estate l'intensa attività della casa del Teatro Ragazzi, che è veramente un edificio molto bello, ristrutturato alcuni anni fa dalla città di Torino, quindi è un luogo per le famiglie, specialmente le famiglie e le scuole naturalmente. D'estate non c'è il pubblico scolastico, ma arrivano moltissimi genitori con i loro bambini, e veramente la richiesta di teatro per ragazzi è una cosa ormai consolidata nella nostra città. Gli spettacoli a che ora iniziano? Generalmente ragazzi che tipo di età hanno? Perché da che anno a che anno si va? Certo, ma dunque qui sono spettacoli che iniziano alle 21, perché d'estate insomma è bello anche fare gli spettacoli la sera, in parte all'aperto, abbiamo anche ovviamente la possibilità di, in caso di pioggia, di andare al chiuso in una sala molto bella, e questi spettacoli si rivolgono a bambini dai 4 anni in su, quindi ci sono i genitori che accompagnano i loro figli, spesso hanno figli di età diversa e tutta la famiglia riesce a godere degli spettacoli che utilizzano linguaggi teatrali ma anche musicali, molto anche linguaggi visivi. Tra l'altro avremo il 13 luglio il Teatro di Piazza d'Occasione, che è uno dei teatri italiani che utilizza di più le nuove tecnologie per la realizzazione delle storie, ma abbiamo anche spettacoli con l'accompagnamento di musica dal vivo come Mastro Stradivario e l'Architetto Magico, che ci sarà il 15 luglio, quindi diciamo c'è una varietà di linguaggi che si rivolgono al giovane pubblico. Ricordiamo il Pifferaio Magico, questa sera storia di coraggio e di paura, un testo italiano di Bobo Nigrone e Silvia Montagnini, parla di un ragazzo che non ha paura di nulla, affronta le avventure che il destino gli riserva senza alcun timore, sfidando anche la morte. Solo quando incontrerà la paura inizierà veramente a crescere. Quindi una sorta di spettacolo di formazione per i più piccoli alla Casa del Teatro per Ragazzi di Torino, come abbiamo sentito da Graziano Melano, un posto anche magico ristrutturato da poco, il Pifraio Magico, fino al 22 luglio a Torino. Grazie. Vi aspettiamo. E si guadagna un primo, molto da molto. E ve lo ricorderete, era Corrado che presentava Il pranzo è servito su Canale 5. Era un momento storico della nostra televisione e anche a teatro, però gli chef hanno il loro perché. Lo andiamo a scoprire al Teatro Stabile di Bologna, dove stasera la nona edizione di sette serate di degustazione con chef emiliani presenta Aurora Mazzucchelli, dopo teatro con gli chef, l'unica donna in programma. E Aurora, che cosa preparerà questa sera? Intanto ciao a tutti. Beh, stasera preparo uno strudel di pasta con all'interno delle crenette di latini, della saraghina, che è un pesce azzurro dell'Adriatico, delle melanzane, delle mandorle e del pane brunito. Quindi è un mix tra Bologna e Sicilia, nel senso che io, avendo la mamma siciliana, mi sono ispirata alle loro scacce che fanno normalmente, insomma, ripiene di verdura o di pesce, e io l'ho riempita con la pasta. Allora, dopo teatro con gli chef è un incontro culinario all'interno della rassegna estiva della Reina del Sole. Voi praticamente che cosa fate? Vi incontrate lì e dopo teatro cucinate? Praticamente sì, il bello è proprio di fare queste due cose, cioè prima si guarda un grande spettacolo, ci si diverte, e poi in un momento appunto di grande felicità, perché non chiudere con un piatto, insomma, in questo caso di pasta, ma comunque con del cibo che rallegra le persone, ecco. Quindi stasera c'è prima i musichieri nell'arena, spettacolo che apre al chiostro dell'arena, giusto? Bravo. E poi c'è lei che ci fa mangiare. Serviremo questo piatto, sì, che è. Ma non è connesso allo spettacolo di questa sera? No, cioè, i piatti sono naturalmente, non sono collegati allo spettacolo, sono tutti i piatti che facciamo, diciamo, ogni anno noi chef proponiamo dei piatti diversi da degustare in modo molto semplice dopo uno spettacolo, ecco, non è una cena con delle pretese o con dei piatti particolarmente complicati, sono piatti semplici che vanno a valorizzare un po' i prodotti che si vuole ogni anno, in questo caso avevamo appunto la pasta latini e poi potevamo usare prodotti del mercato, prodotti del pesce, insomma vi danno delle indicazioni. Allora ringraziamo Aurora Mazzucchelli, che ricordiamo è lo chef di questa sera per l'incontro culinario dopo teatro con gli chef all'Arena del Sole, al Teatro Stabile di Bologna, i musichieri nell'arena alle 21:30 e subito dopo i piatti di Aurora. Grazie. Grazie, questa sera, ciao. E vogliamo segnalare ancora alcuni avvenimenti. Il Festival del Teatro Amatoriale di Milano, al Teatro Nuovo, questa sera in scena Il Mistero dell'Assassino Misterioso, scritto da Lillo e Greg con una compagnia amatoriale. Poi ci sono i Cranberries all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, che aprono il Rock in Roma Festival. Daniele Silvestri stasera all'Arena del Mare di Genova e i Momix invece al Teatro di Ostia Antica. Chiudiamo segnalandovi al Conte Testaccio di Roma una raccolta fondi per l'Associazione Artisti 7607 con Elio Germano, Carmen Giardina, Neri Marco Re e anche Claudio Santamaria. L'associazione è nata in seguito alla situazione di emergenza che si è creata con la messa in liquidazione dell'istituto che dovrebbe tutelare i diritti economici di attori, musicisti e danzatori. Quindi una raccolta fondi alle 22:30 a Roma al Conte Testaccio. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona serata da Elisabetta Fiorito.